Brassy Fox Inc. Brassy Fox Inc. Brassy Fox Inc. Brassy Fox Inc. Brassy Fox Inc. Brassy Fox Inc. Sempre fedeli fra gli infedeli, fra mille pensieri, fai brutti pensieri, è zero misteri come casa misteri. Ti scappa una bestemmia come Tiberio ti imperi. Per voler aria fresca, no no non basta. Michael Deuspin, fondamentalmente sono fondamentalista come un mujahideen. Con le rimasti fedeli li decapito, la testa poi a casa gli recapito. Solo in un attico, ti va di scapito. Quando capita che io capito, hai capito? Credici, te lo dico ancora, credici. Non mi ascolti allora, te l'ho detto, si fa stretto come come fra le tette di Antonella Clerici. Sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli, qui ci trovi sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli. Ho la testa alta e se magna carta, quando scrivo sopra un foglio una bomba carta. Come va con la tua vita, ne vorresti un'altra? Io la vita l'ho passata sui tubi come Marta. Chiediti chi è questo che canta, bagno le rime con l'acqua santa. La paura che domani tutto il mondo salta, combino la paura per l'acqua. Sì ma adesso fatemi spazio, le due menti due barre vi spiazzo. Sono stato programmato per gli ascolti, quindi o mi ascolti o ti attacchi al... Cosa credi, son fedele, sciocca, estino a te come fede le tocca. Premio Nobel per la pace a me che con una strofa vi tappo la bocca. Fedeli, noi siamo sempre fedeli, qui ci trovi sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli. Sempre fedeli come la brigata Sassari, piuttosto che tradire i miei fratelli, meglio ammazzami che il marchio da infame, meglio la fame, mica vendo il culo come voi puttane. Il giusto compenso quello è un'altra cosa, quello lo pretendo se non ci si riposa, è per la tua posa, io ho un'altra prosa, tra le pagine veleno come il nome della rosa. E dove vai, vai via, che rap è cosa mia, cosa nostra in questa costa, lo sa pure tua zia, che tu sei la spia, mica messia, e così sia, mira pure alle spalle, senza palle, tanto sento la scia, di merda di stalle, perché dico balle, che dentro le stalle c'è più pulizia. Sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli, qui ci trovi sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli. Mio patto, testa e spalanco dal retro di questa falange. Nell'aria vendetta si tange il mio branco, per ogni infedele qua stende le lance. Anime marce, doso porzioni in pozioni di flusso, chiamami druido, Ray Shan. Sempre fedele alla nobile scuola di Okuto. Leggo molecole metriche per il mio ego, mi danno del gini che fisico tra finte etiche. Taglio le corde vocali a chi mette voce in capitolo. Sette fedeli con queste notti, esoterista, riside torchi. A quale colline si vendano gli occhi, noi stiamo dietro la nona porta. Cosa ci puoi fare se ci sono persone che, differentemente da te, sanno scegliere, prendere una posizione, dare la parola e finora mantenerla, è roba da non credere. Io ho fede, tu hai fede, lui ha fede, noi abbiamo fede, ma Dio non provvede, il mio cuore non duole, ma occhio non vede un benedetto palco su cui metterci piede. Lascio stare, non ci penso, intanto nel frattempo invento un modo migliore per farmi planare sulle onde del mare, spinto dalla brezza del vento. Dentro una corporazione il cui nome è memoria, Crazy Fox, niente wig da bronze, whisky on the rocks, ma colpi in stile Thai box. Sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli, qui ci trovi sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli. Sempre fedeli come nel 39, senza le bombe. Sempre fedeli agli amici fraterni, come la figa, la squadra del cuore. Sempre fedeli al nome, qua non si cambia. Matura l'età, peggiora la faccia, ma tutto sommato sempre fedeli a quello che siamo, piace o non piaccia. Io non voglio fare la morale, ma senza realtà dove si vuole andare? Sai che preferisco uno stronzo onesto piuttosto che un bastardo infame. Chiedi pure su queste strade chi sono, poi riga dritto, basta il tono. Se mi hai tradito sei un uomo finito e muori chiedendo perdono. Sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli, qui ci trovi sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli. Lo spiego sulle barre, lo faccio così. Sono uguale a Vasco Rossi che due lunedì. Come rapper sono più fedele di chi non combina un cazzo ma riceve solo meriti. A dir la verità io non ho mai chiesto nulla, sempre stato vero sin dai tempi della culla. Le mie gente senza che io le dica mai niente, quando canto sopra palco la senti sempre che urla. Buono, senti come sono, vedi che alla fine quando scrivo rime frateci ragione. Un dono, sullo strumentale vi divoro. Io non ci guadagno e tu non chiamarlo lavoro. Se mi criticano li lascio tre cazzi loro. Me li lega dito sì ma poi non li perdono. Stono nella vita ma so che miglioro. Le mie crew vi manda a fanculo in coro. Sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli, qui ci trovi sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli. Sempre fedeli. ci trovi sempre fedeli, noi siamo sempre fedeli.